This Is Not an Exit. Digressioni musicali dalla fine del secolo breve. A long time forgotten, the dreams that just fell by the way. Goodbye, be promised, they must be. Right now, I want the undivided attention of every God-fearing American citizen. Un'altra serata rilassante in nostra compagnia. Benvenuti a tutti ascoltatori e ascoltatrici di Radio Città del Capo. Siamo in diretta, This Is Not an Exit, solite escursioni in campi poco conosciuti. Beh, intanto buonasera dottor Scarpa e buonasera dottor Corrias. Buonasera, finalmente un po' d'ossigeno, vabbè. Siamo stati troppo buoni ultimamente, dai, il Reed non è poi così buono. Questi sono particolarmente incattiviti, però, Una sì. Cosa, Nicola. Una cosa, cioè, qui c'è tanta amarezza, tanta alienazione e tantissimo odio e rabbia. Sì, se il metal ha sempre avuto questa funzione, c'è poco da fare, quella di scavare nel torbido, scavare nelle pulsioni più oscure, ma fino ai tempi più ingenui, quelli dei Black Sabbath e delle Zeppelin, dico bene? Eh sì, il problema è che qui i Today is the Day se li mangiano veramente a colazione, cioè hanno, cioè tutti non possono che imparare da loro, cioè, non c'è nulla di più da fare. Beh, insomma, questa sera tenetevi forte, si farà un po' di su e giù, un po' di montagne russe tra metal e dintorni, perché i Today is the Day non sono solo metal, ma sicuramente sono piuttosto urticanti. Sicuramente con un gran gusto, gran maestria, e questo è innegabile, cioè anche creare il caos, ma a questi livelli con così tanta padronanza è molto, molto insolito. Sì, anzi, fa anche più paura, perché è un caos razionale, non so come spiegarmelo meglio. We'll be right back. Beh, insomma, se ancora c'è qualcuno, anzi, c'è qualcuno in ascolto che ha sopravvissuto alle fucilate sparate da Steve Austin mentre indiscussa nel tutto il progetto Today's the Day lungo tutti i 90 e oltre, perché i 90 li vedono cominciare nel 1993 con il primo disco, poi loro hanno una carriera molto lunga, praticamente un disco ogni due anni, e direi che fino al 2001 non ne sbagliano uno, cambiando stile ma continuando ad avere come sottotraccia il tema dell'orrore, parole di Steve Austin. L'orrore sveglia la gente, cambia la loro percezione. E beh sì, lui poteva dirne parecchi, perché Steve Austin è nativo di Nashville, la patria del country, e il country come tematiche era diametralmente agli antipodi di tutto quello che i Today's the Day suonavano e portavano avanti. Beh, sicuramente non è stato facile per uno come lui vivere in una città come Nashville. E Nashville, che ricordiamo anche nel film di Robert Altman, che fa vedere appunto la scena country rock di questa provincia americana. Robert Altman, che tra l'altro proprio nel 93, album anno dell'album Supernova dei Today's the Day, si presenta di nuovo alle grandi masse con il film America Oggi. Lui fa vedere sempre questo spaccato, certo non estremo come lo poteva far vedere Steve Austin, davvero estremo, perché lui comunque non ha mediazioni. Lui nasce cioè come un ragazzo che vive un po' la sofferenza d'essere vittima dei bulli, perché lui comunque un po' fuori forma come ragazzo, inizia davvero a chiudersi in casa per studiare, fa questa vita un po' chiusa, però sempre con la passione della musica. Già a 14 anni lui aveva un 4 tracce, quindi già la musica da adolescente, solo che poi non trovava gente con cui suonare. Poi a un certo punto, dopo la laurea, insomma, perché lui comunque ha avuto un curriculum alto scolastico, a un certo punto inizia davvero a trovare qualcuno come lui, a fare questo tipo di musica, a mandare a fanculo tutti i suoi paesani fissati col country e iniziare questo che è il suo genere. Come on. Stop with that already. No. Enough. Stop with that. No. I'm telling you, I look in your face and I know that you're lying! :33, sempre Radio Storia del Capo in diretta. This is not an exit, in compagnia di Today is the Day. Today is the Day, abbiamo detto prima, parlavamo del metal e della sua capacità di scavare nell'oscuro. Loro lo facevano in maniera molto espressionista, mettevano un sacco di suoni presi da film, da documentari, Carry On, suoni che rendevano i suoni dell'America, il vissuto dell'America quotidiana, quella che appunto Steve Austin, il leader incontrastato, aveva vissuto sulla sua pelle e continuava a vedere, perché era tornato nella sua Nashville. E poi lui stesso c'era dentro fino al collo. Una band romana che conobbi anni fa in Salento al mare mi raccontò che andò a registrare nei suoi studi di Nashville, appunto. Entrarono nello studio e videro un fucile appeso alla parete. Ovviamente si sorpresero, perché per noi italiani è abbastanza incomprensibile e quantomeno inconsueto. E invece Steve Austin li guardò e gli disse: come? Non avete mai sparato? Non possiamo registrare se non avete mai sparato. E li portò in campagna da suo zio ad esercitarsi con i fucili. We'll be right back. L'America è attraversata continuamente dagli show itineranti dei venditori di armi. Gun show fanno ormai parte della tradizione. In questi grandi mercati della morte, criminali e ben pensanti possono ammirare gli ultimi ritrovati della tecnica: fucili automatici, silenziatori, pistole minuscole e persino granate. Fra il pubblico si aggirano uomini, nonché donne, in tute mimetiche e divisa da marine. Il giornale più venduto è Liberty Lobby, quello dell'estrema destra ultraviolenta. Il settimanale più letto è Soldiers of Fortune, la rivista per aspiranti mercenari fondata nel 75, subito dopo la fine della guerra del Vietnam, e che organizza una convention annuale. Le auto portano sticker che chiedono l'arresto di Bill Clinton, presidente troppo tollerante, e inveiscono contro il comunismo. Si vedono persino ancora gli sticker contro Jane Fonda, rea di aver fatto propaganda a favore dei Viet Cong nei lontani anni 60. Il grande nemico è però soprattutto il governo federale. Gli estremisti di destra inneggiano contro le tasse e naturalmente a favore della libertà del porto d'armi. We'll be right back. are the thumbs and the eyes. You are the energy and the shine. You are the rhythm and the gift. You are the angel and the fist. You are the universe. You are the universe. Tramite i gun show che gli estremisti di destra comunicano fra di loro. Sono quelle le uniche occasioni, in fondo, che gli esponenti delle varie milizie, delle varie sette religiose si possono incontrare. Anche i suprematisti e neonazisti, naturalmente. E poi si trovano uno accanto all'altro a parlare. Gli opuscoli venduti da ciascun banchetto fungono da messaggi inviati da una comunità all'altra. E ciascun opuscolo è semplicemente un elenco di invettive paranoiche contro i loro nemici comuni. Come abbiamo detto prima, che siano comunisti o che sia Bill Clinton. L'intelligenza media di questi personaggi è d'altronde molto bassa. La maggior parte sono casi psichiatrici che non riuscirebbero comunque a commettere le cose che dicono. Le comunicazioni fra questi soggetti viaggiano unicamente a livello di slogan. E per fortuna, aggiungerei. Fra le pubblicazioni in vendita si trovano manualetti su come costruire bombe, su come formare società segrete, su come torturare prigionieri, su come compiere attentati in centri densamente popolati, su come difendersi da una retata dell'FBI. E naturalmente il tema comune è quello della protezione a oltranza, con le armi se necessario, del diritto di possedere un'arma. Ogni iniziativa di gun control è un attentato alla Costituzione. Beh, d'altronde anche il buon Steve Austin, abbiamo parlato di armi a profusione, lo mette lui stesso. Lui era un working man class, cioè alla fine mollò tutto e cominciò a lavorare dove prima, dove più facilmente trovava, insomma, e fino a diventare responsabile vendite di un'agenzia di un negozio, scusate, di un'impresa di prodotti nautici. Ebbene, la sua giornata tipo era quella di andare a letto più o meno alle 5, svegliarsi alle 10, andare a lavorare, poi andare in studio, perché comunque alternava il suo lavoro di musicista e di venditore, quello di tecnico del suono, anche piuttosto rinomato e famoso, in più mise su una sua etichetta e poi ovviamente doveva dedicare tante energie ai Today is the Day. Bene, quando arrivava a livello, parole sue, andava appunto a sparare per sfogarsi un po'. Un antistress. So we were, she started to dip and everything, so I didn't think she knew what she was doing, but she showed me. She laid me down and ran her tongue down my neck and down my spine and down to my ass. And oh, she licked your asshole too? Yeah, she licked my asshole too. And I was, ooh, I love being fucked by a tongue. We'll be right back. is alive and well. And to prove it, here, with the full cooperation of the men and women involved, in nomine Dei is an actual celebration of the Black Offense. Provammo i brani per un mese intero, 6-8 ore al giorno, in studio, all'interno di un merdoso magazzino pieno di crepe. Faceva caldissimo, ma quell'atmosfera ci ha aiutato a tirar fuori dalla nostra mente istantanee malate, contorte, istantanee che fissano per sempre un dissidio profondissimo tra forma e contenuto, tra le emozioni solenni e brutali. È come se ci fossimo provati della nostra anima simultaneamente. Temple è fatto di emozioni suicide, paranoia, paura, paranoia, amore, morte, precisa Steve. E la disciplina parosistica e indistruttibile del suono. Quella di Temple è metal della precisione, aggiunge ancora Hyde. Ecco perché, come giustamente fai notare, la sezione ritmica guadagna la scena in maniera del tutto inedita. E come batterista volevo portare la band ad un livello, verso una nuova dimensione. E spero di esserci riuscito. We'll be right back. 22:12 minuti primi, siete sempre in diretta con noi. This is not an exit, Radio Città del Capo. Non so se siate quanti siate rimasti ad ascoltare Steve Austin con i suoi Today is the Day, un gruppo che scientificamente aveva costruito una macchina dell'orrore, lo dicevamo all'inizio. L'orrore sveglia la gente e in un paese addormentato, ricordo che siamo qua a metà degli anni 90, inizio anni 90, dopo anni di reaganismo, poi Bush era stato eletto Bill Clinton e l'America sembrava diventare di nuovo una terra promessa, un'America più morbida. In realtà era semplicemente un'America plastificata come pochi e senza avere troppe ambizioni da sociologo, il buon Steve Austin cercava di raccontare la sua America, il suo vissuto, ma probabilmente in questo modo raccontava tantissimo, molto più di tanti libri, di una società piuttosto complessa, diciamo, e infatti la musica dei Today is the Day è molto complessa. We'll be right back. Qualche nota biografica del gruppo, magari giusto per quasi in chiusura. Loro comunque vengono da Nashville, sono Steve Austin voce e chitarra, Brad Herrod alla batteria e Mike Harrell al basso, e firmano per un'etichetta grossa, l'Amphetamine Reptiline, insomma l'etichetta che forse nel 90 ha tirato fuori il miglior noise, perché comunque possiamo anche parlare di quello che usciva nel periodo. Ricordiamo che avevano la gallina dalle uova d'oro, l'Amphetamine Reptiline con gli Helmet che di lì a poco avrebbero cambiato etichetta e hanno perso comunque la gallina. Sicuramente l'Amphetamine Reptiline con Today's the Day non ha fatto il grande botto commerciale, vero Bab? Grande coraggio, però poco da fare, perché il noise appunto con gli Helmet era già stato in questi anni. Gli Helmet cominciano alla fine degli anni 80, nei 90 era già un genere abbastanza codificato con tanti emuli. In Today's the Day andavano ben oltre, quindi era interessante comunque avere queste etichette che avevano ancora il coraggio di sperimentare, ma sperimentavano a ragion veduto. C'era un pubblico, c'era gente che andava a concerti, non lo so, aveva voglia di farsi spaventare o di farsi svegliare, come diceva Steve Austin. C'era un pubblico che comprava, magari non centinaia di migliaia di copie, ma permetteva a un business, perché a un piccolo business come può essere quello di un'etichetta come l'Amphetamine Reptile, di andare avanti. Questa è andata avanti per anni con gruppi non tanto estremi forse come Today's the Day, ma insomma il catalogo più o meno era questo. Thank you. non che mi piaccia molto sfumare i brani, comunque ne abbiamo ascoltato parecchi questa sera di Today's the Day. Se avete avuto pazienza, vi ringraziamo di essere stati con noi per quasi un'ora e mezza, 22-26 minuti primi. A risentirci giovedì prossimo, sempre alle 21.05, 21.06 o giù di lì. Buonasera, dottor Scarpa, buonasera, sì. Dottor Rias, anzi, buonanotte. Buonanotte ormai, sì, buonanotte. A tutti e a tutti, a giovedì prossimo, sempre insomma su queste frequenze di Radio Città del Capo, 94.7, 96.250, abbiate pazienza anche giovedì prossimo, perché sicuramente... È il noise, ragazzi. Altrimenti c'è sempre Radio Bruno.